and your keys. Your engine is on. Please fasten your seatbelt. Is required. 21.05 Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, inizia prove tecniche di trasmissione anche per oggi 13 dicembre del 2017. Spazio che andrà avanti fino alle 22.30, poi ci sarà 25 o'clock che andrà avanti fino alla mezzanotte e dintorni. Contatto telefonico 06 49 1750, sito internet è www.ondarossa.info, indirizzo di posta elettronica ondarossa@ondarossa.info. Questo spazio ha una pagina Facebook, che è prove tecniche di trasmissione / disorder, dove domani ci sarà la playlist, il podcast e tutto ciò chiaramente sarà anche nel sito della radio stessa. Un saluto a Alessandra qui da Roma, Maya dall'Argentina, Raffaele Pezzella da Napoli, Fio qui da Roma. E quindi proprio con Raffaele Pezzella andiamo ad iniziare e lo facciamo con un lavoro, tornando un po' ritroso nel tempo, attraverso la sua etichetta, la Nesplay Sounds, abbiamo un po' tirato fuori questo Northern Lights, The Scandinavian Experimental System Survey, un lavoro del 2016, uno dei tanti che va a fare, come dire, il punto della situazione sulla floridissima scena scandinava per quanto riguarda dark ambient e sperimentazione in genere. Quindi cominciamo con il conoscere questa lunga compilation con Lars Brondum, con una traccia dal nome Transition, e Øystein Jørgensen con Dream Machine. Salutiamo anche Antonella dalla Sicilia. Nelle prossime settimane dunque andremo a scandagliare e a conoscere questa The Scandinavian Experimental Systems Survey Northern Lights, le luci del nord, una delle tante opere e compendi molto interessanti ideate da quel diavolo di Raffaele Pezzella, H-sonologist, agitatore culturale sia come musicista sia come ricercatore di suoni altri. E questo attraverso la Nespless Sounds, etichetta e anche un gruppo di manipolo di appassionati, un gruppo Facebook che consiglio di frequentare assolutamente. Questa sera ci siamo gustati Lars Brøndum dalla Svezia e Øystein Jørgensen dalla Norvegia. Sarà una compilation costellata di talenti ultrasotterranei, personalmente per la maggior parte sconosciuti, ma che scopriremo attraverso appunto l'opera incessante di Pezzella, che risalutiamo ancora una volta. Come risalutiamo Alessandra all'ascolto. Rimaniamo in Svezia con un nome leggermente più noto, lui è Atrium Carceri, questa volta in combutta con lo spagnolo Eldar in un album del 2012 dal nome Sacrosanct. Non ci allontaniamo poi in fondo di molto da queste atmosfere e da Sacrosanct ci andiamo ad ascoltare il brano che lo va ad aprire, Withering, e dopo il terzo dal nome Freeman. Yeah. Usciva dunque nel 2012 questo Sacrosanct, una collaborazione tra Simon Health, svedese, al secolo Atrium Carceri, e gli spagnoli Eldar, provenienti da Barcellona. Dunque un inizio di prove tecniche improntato sul Dark Ambient, e nel caso di Atrium Carceri ed Eldar anche con un profilo abbastanza sprigno. Entrambi i progetti hanno una carriera abbastanza lunga alle spalle, iniziata circa 10-15 anni fa per entrambi. Intanto salutiamo un altro protagonista della scena ambient qui di Roma, ossia Like Awake, e anche Nicola Locci dalla Sardegna con Stigmate, altro nome importante ed emergente della scena industrial italiana. Arriviamo qui in Italia e ci andiamo un po' ad ascoltare ed a conoscere l'ultimo lavoro dei Camerata Medionalense, una delle migliori espressioni di atmosfere neoclassiche, neofolk, martial. Anche se questo ultimo lavoro, Le Vergini Folli, ce le restituiscono in una dimensione molto più raccolta, intima e sostanzialmente pianistica. Album molto interessante che esce in due volumi. E prima di mandarlo salutiamo anche Jim Cosowan dal Canada, che bontà sua ha tirato su un portale che al pari della Order of Dragon argentina va un po' a conoscere le varie musiche, i vari DJ e progetti in giro per il mondo, e bontà sua mi ha coinvolto in questa cosa, per cui troverete anche menzionate Disorder e prove tecniche di trasmissione anche in quel del Canada.

E dunque la Camerata Mediolanense nasce nel 1994 dalla volontà di Elena Previdi, ispirandosi alla Camerata Fiorentina, quel luogo fisico, quel luogo culturale dove appunto ci si confrontava e si suonava insieme nella notte dei tempi. Attualmente i Camerata Mediolanense sono per l'appunto Elena Previdi alle tastiere, in questo album e soprattutto al pianoforte, Trevor alla voce, le percussioni, tastiere e i samplers, Marco Colombo alle percussioni, come anche Manuel Aroldi. E in questo ultimo lavoro il progetto si è arricchito con le splendide voci di Carmen D'Onofrio, Desiree Corapi, Chiara Rolando. Le Vergini Folli, sorta di concept album che vede protagoniste donne, in un certo senso maledette dalla storia e dalla morale, che appunto vengono menzionate in questo splendido lavoro dei Camerata Mediolanense. Ci andiamo negli Stati Uniti attraverso il neofolk a profilo martial dei Nomonclast. Questo è un album Gather Together, ci usciva qualche annetto fa attraverso la Old Europa Café, che al contrario è una realtà italiana nata a Pordenone tantissimi anni fa e tuttora operante. Questa è We Are The Last e poi ci ascolteremo Zeist, Ist Ein Werfelter e poi Sins of Our Parents. They deafened their ears, they blinded their eyes. When first truth was heard, truth witnessed not yet born, then buried now exhumed, this world of lies is born. The last of our species alive today, knowing the hour, they'll know the way. See the end, walk amongst us now. Not what they did to those, it's what they've done to us. It's all about their lies, it's all about their trust. Then buried now exhumed, through lungs that now breathe, through eyes that now see, the truth is conceived. The last of our species alive today, not knowing the hour, they will know the way. Those will see the end, what amongst us now, not yet knowing why, they will know how. The last of our species alive today, we have learned the hour, we will show you the way. Those will see the end, what amongst us now, we know the reason, we will show you how. Lies how many fathers, the truth has only one. Lies how many fathers, the truth has only one. Lies how many fathers, the truth has only one. Lies how many fathers, the truth has only one. What is the case that man has done today? And given this biological deficiency, mankind cannot exist without the subjugation of stronger beasts, so as to continuously procure our much-needed security. In time, humans began to use other humans to labor toward the fulfillment of the impossible enterprise. We with the council of astronomers, kings arose, from which there rose nations consisting of men subservient to the king's vassal. The kings and pastured gods, and the sacrifices they demanded consisted of the lives of their kin. And this was the genesis of worship. Ancora no, Monclass, intanto salutiamo il buon Gabriele, affezionato ascoltatore di Radio Onda Rossa, di questi spazi e anche del successivo 25 O'Clock, che ricordo andrà in onda alle 22.30 circa. Everything you've done, crawling and infringing, believe they have won. All that has been done, has been done before. All hope and all striving lead to failure's door. remains and open the door. Mighty waters rolling on a future shore. However, it's often a mistake to accept something as true merely because it's obvious. The truth is only arrived at by the painstaking process of eliminating the untrue. Step backward toward future shore. Go further, time is no more. Upon us the stamp, the sins of our parents, their loss and their failure to all is apparent. Abolish the lies, abolish the greed, abolish the weakness upon which they feed. Abolish the hope, abolish the dream, abolish revision. This is what it seems. Step forward, to the world unveiled. Go further, by truth now assailed. Upon us is stamped the mark of our history. These final emotions shall be our victory. Step forward, to the world unveiled. Go further, by truth now assailed. Upon us is stamped the mark of our history. These final emotions shall be our victory. Step forward, go further, my truth now assail. Upon us is stamped the mark of our history. These final motions shall be our victory. Step forward, toward the world unveil. Go further, my truth now assail. Upon us is stamped the mark of our history. These final motions shall be our victory. Abolish the greed, abolish the weakness upon which they feed. Erano dunque Nomonclast con questo Gather Together, un album del 2011. Ricordo ancora una volta uscito, stampato, prodotto dall'Old Europa Café di Rodolfo Protti. Un progetto americano con membri dal profilo personale alquanto misterioso. I nomi sono, diciamo, di abbastanza opportuni per l'occasione. Gene One Static e N2 Identity. La cosa più certa è che collaborano abbastanza abitualmente con Art Abscons, progetto tedesco, e Luftwaffe, con i quali credo almeno ci sia un componente in comune. 21:54, Radio Onda Rossa, 87.9 in modulazione di frequenza. Il contatto telefonico è lo 06 49 1750, il sito internet per lo streaming e per le notizie contenute nel sito stesso è www.ondarossa.info. Torniamo in Italia. Le scorse settimane e nello specifico sabato a Roma hanno suonato per Radio Onda Rossa Franti, Ombra e Roselux di Tiziana Loconte. E andiamo un po' a risentire Tiziana Loconte col suo progetto, il suo vecchio progetto originario che portava il nome di Gronge insieme a Marco Bedini. Con piacere ci risentiamo il loro esordio del 1985 dal nome Classe Differenziale. Ci ascoltiamo Scenografia di un teatro immaginario e Grido chimico. We'll be right back.